San Paolo dice a Timoteo e dice a ciascuno di noi che tutta la parola di Dio è ispirata e serve a formare in noi l'uomo retto. Solo che la parola di Dio è fatta di tanti piccoli libri e ognuno ha il suo stile e il suo modo. I libri storici che narrano la storia di Israele e dei grandi suoi personaggi, da Samuele a Davide, a Mosè e agli altri, ci insegnano soprattutto attraverso dei racconti, delle vicende, delle storie, nel senso buono della parola. I libri sapienziali che stiamo accostando da un po' di tempo ci insegnano invece attraverso come delle sentenze, come delle piccole frasi, dei proverbi. E allora è importante che se uno legge, per esempio, il brano di oggi dei Proverbi, capitolo 3, versetto 27 seguenti, si deve soffermare su ogni frase. Altrimenti legge 5, 6, 7 frasi una dopo l'altra e non lasciano il segno. Bisogna dunque fare quella che io tante volte vi raccomando, la meditazione o una lettura meditata della Bibbia. E questo lo può fare ciascuno di noi solamente. In attesa che voi mi diciate come lo fate, perché mi piacerebbe avere qualche eco da voi, no? Don, sai che questi libri della Sapienza sono proprio belli. Qualcuno ogni tanto mi manda un messaggino su WhatsApp e mi dice: ho riscoperto il Coelet, ho riscoperto il Siracide, ho piacere. Allora, in attesa che ciascuno di voi ascolti questo mio suggerimento, vi dico io come ho fatto a leggere questi brani, queste sentenze e a masticarne ciascuna per ricavarci. È chiaro che quello che vi dirò ha il mio stile, non siete obbligati a condividerlo, non, men che meno a ricopiarlo, però se vedi come uno fa, tu magari con uno stile diverso potresti tentare di fare anche tu con la tua personalità. Dunque. Figlio mio, non negare un bene a chi ne ha il diritto, se hai la possibilità di farlo. Uno si dovrebbe fermare su questa frase e dire: alla mia vita, che cosa insegna? Come io posso vivere non negare un bene a chi ha il diritto, se ne hai la possibilità di farlo? Don, io la possibilità di farlo ce l'ho. Qualche migliaio di euro ce l'ho in banca, però come faccio qui? Che cosa faccio? Tutti chiedono, tutti. Ah, io ti dico come faccio io. Agli accattoni di professione non do niente. Quelli che incontro sul metrò, quelli che stanno fuori dalle porte delle chiese, dei cimiteri, questi lo fanno di professione e tante volte sono guidati da un capoccia. Io ho provato a vedere della gente che raccoglieva su e poi andava a versare a qualcuno. A questi non gli do niente. A chi bussa alla mia casa, 2 euro glieli do. Soprattutto che bussano non sono questi accattoni, sono i poveri temporanei, soprattutto gente di colore, no? Che magari è venuta qui o per lavorare o che cosa e che si ingegna a vendere qualcosina. Poverini, non ho bisogno di niente, non compro niente, però non voglio che vada via da casa mia senza. E poi ho cercato di suggerire a diversi miei parrocchiani un sistema. Nella Bibbia si parla che il popolo dava la decima a Dio, il 10%. Io credo che sia impossibile dare a Dio il 10%. Allora ho detto, e se noi dovessimo dare di tutti i soldi che prendiamo, di tutti gli introiti, l'1%? Ma non darlo alla gente accattona così, magari darlo ai missionari, per esempio, darlo alla Caritas, darlo a delle persone che sei sicuro dove vanno a finire. Però l'1% mi sembra poco, se uno prende 1.000 euro, dare 10 euro, insomma. Dare il 3%, 3% comincia a diventare tanto, 30 euro. Io ho suggerito di dare il 2%. E diverse persone hanno ascoltato questo mio suggerimento e quando prendono la pensione o quando prendono lo stipendio, il 2% è per i bisognosi. ripeto, non gli accattoni, ma le persone mirate. Mi sembrava, se hai la possibilità di farlo, questo forse si ha la possibilità di farlo, vero? Non dire al tuo prossimo, va, ripassa, te lo darò domani, se tu possiedi già quello che ti chiede. Quante bugie si dicono. No, non è in casa. Oppure, ripassa un'altra volta. Ma daglielo quel 2 euro, non dire bugie. Non ho spiccioli. Quante bugie diciamo. Se non hai voglia dici di no e basta, no, perché no, non voglio dartelo. Abbiamo il coraggio di guardare in faccia le persone, io le guardo sempre in faccia. Mi dà qualcosa? Dico, guarda, ti dico buongiorno. E non mi dà niente. E ti ho dato il buongiorno, no? E non è una cosa così banale, perché tante volte la gente gira via la testa, eh? E ancora, non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli dimora fiducioso presso di te. Pensavo e dicevo, chi è il mio prossimo che dimora, che abita fiducioso presso di te? Il tuo coniuge, i tuoi genitori, i tuoi figli. Non tramare il male, non pensare a pensieri di tradimento verso il tuo coniuge. Il tuo coniuge dimora fiducioso presso di te e tu vai inseguendo pensieri pornografici e tu visiti siti pornografici e tu fai l'occhiolino alla collega o al collega. Ma no, oppure il figlio tranquillamente imbroglia il papà e la mamma. Quante bugie i figli, quante menzogne i figli. Non vi pare che queste parole della Bibbia, non tramare il male contro il tuo prossimo, mentre egli dimora fiducioso presso di te, non litigare senza motivo. Avrei tante altre esperienze da dirvi, ma non ve le dico perché è già 7 minuti che parlo e diventa peggio della domenica, no? Però vi suggerisco, impariamo a prendere la parola di Dio in queste frasette, in queste sapienziali e svilupparla, applicarla alla nostra vita. Se no questo brano passa e non lascia segno.